Per nostra fortuna Alessandra ha saputo guardare oltre, ha abbandonato l'amico ed è rimasta con me. Ma ha scelto me, e ce lo diciamo tutti i giorni, e non per la storia che ho alle spalle. Questo mi è successo e dispiace sia a me sia a lei, ma ha scelto me per quello che sono. Dopo che abbiamo incominciato a stare insieme, lei ha insistito per conoscere mio padre. Prima ha voluto che io conoscessi i suoi. Sua madre da subito mi ha trattato come se fossi suo figlio. Sapeva tutto e non mi sono sentito giudicato per nulla, nemmeno per un secondo. L'occasione per Alessandra di conoscere mio padre invece è stata la mia laurea. Lui ha ottenuto un permesso e ha assistito alla discussione. Ero più teso per l'incontro che per la discussione della tesi, ma è andato tutto bene. Anche papà si è subito affezionato a lei. Era molto commosso ed è stato un altro passaggio importantissimo nella ricomposizione di un rapporto tra di noi. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Linee d'ombra. Quanti sono gli infiniti dettagli che stanno intorno ad un avvenimento come questo? Quanti sono le infinite sofferenze che hanno a che fare con la vita quotidiana, con incontrare degli amici che non si rivelano degli amici, con le difficoltà nel dover raccontare io sono questo senza magari avere voglia di farlo, senza avere voglia di raccontarlo. Continuiamo ad ascoltare il racconto del nostro protagonista. Quando io ti ho contattato, che tipo di pensiero hai avuto? Cioè, come un'intromissione? Cioè, te lo domando perché appunto, perché vorrei restituire questa cosa con il giusto rispetto. Grazie ad Alessandra il mio rapporto con mio padre è anche migliorato. Io tendenzialmente faccio un po' fatica ad esprimere le mie emozioni. Lei invece è una persona abbastanza rilassata in questo senso e mi ha spinto a fare dei passi che da solo non avrei fatto. Anche stamattina l'ho sentito per dirgli del nostro appuntamento ed era molto contento. Forse un po' preoccupato, ma anche lui era d'accordo con me sull'accettare la tua proposta. Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe che il racconto della mia storia aprisse gli occhi a tanta gente, non tanto sulla tragedia che mi ha investito, quanto sulle conseguenze che i familiari come me vivono dopo questo tipo di tragedie. Non so neanche bene come esprimertelo, però ecco, è una cosa che mi fa abbastanza schifo quando si mettono a parlare in un certo modo di quello che mi è successo, quindi forse può servire a capire qualcosa in più sugli esseri umani. Già è difficile conviverci con una storia familiare come la mia. Se in più si deve sopportare il carico del giudizio degli altri, può diventare un peso insostenibile. Altri, in casi come il mio, non ce l'hanno fatta ad andare avanti. Si sono suicidati o si sono persi dietro a dipendenze fortissime. Io non voglio essere classificato come il figlio del mostro, né come la vittima, ma come una persona. Però è difficile. Gli sbagli, anche gravissimi, vanno affrontati come tali, con serietà, delicatezza e rispetto. Tutti abbiamo diritto al rispetto e alla delicatezza. Io ho perso mia mamma in una circostanza terribile e nella stessa circostanza ho rischiato di perdere la vita. E non voglio, oltre a questo, sentirmi osservato o giudicato. E l'uomo che aveva il compito di proteggerci è stato il nostro carnefice. È già abbastanza pesante questo. Chi parla, chi giudica, chi dà consigli non richiesti sull'argomento non sa nemmeno lontanamente cosa significa, ma non ci pensa. Ecco, io vorrei, con questa mia testimonianza, che ci pensasse un po' di più. Non voglio sembrare maleducato, ma ne ho già abbastanza dei miei pensieri. Ecco, spero di essermi spiegato. Darling, the door is open to my heart, and I've been hoping that you won't be the one to struggle with the key. We got lots of time to get together if we try. The waiting time is over. No man sees around the corner. Walking in the rain and coming home dry. There's something missing there. It's easier to care and try. And I try to wash my hands

con Linee d'Ombra per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!